Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Raffaele Cantone, 52 anni, napoletano, sposato con due figli, magistrato dal 99 nella direzione distrettuale antimafia, indaga sui casalesi, ottiene l'ergastolo tra gli altri per Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti. Nel 2013 Enrico Letta lo nomina nella task force per l'elaborazione della proposta sulla lotta della criminalità organizzata a Giugliano, dove è cresciuto. È presidente onorario di Libera, l'organizzazione fondata da Don Ciotti. Nell'aprile del 2014 Renzi lo nomina presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e comincia subito come sorvegliante speciale delle gare di appalto di Expo, poi il Mose, il Giubileo e anche gestore degli arbitrati per gli obbligazionisti colpiti dal crack delle quattro banche salvate per decreto dal governo. Il magistrato della provvidenza, insomma, l'uomo simbolo della trasparenza, il jolly da giocare in tutte le situazioni difficili. Ecco, dottor Cantone, lei è napoletano, sembra il San Gennaro del governo Renzi. Le piace? Non mi piace, ma non mi ritengo tale. Senta, è devoto a San Gennaro? Non particolarmente. Devo dire, se dovessi scegliere un santo, io sono molto devoto a Sant'Antonio. Ah sì? Perché? Non lo so, è una mia tradizione familiare. Senta, però dopo l'Expo, Roma, i rimborsi delle banche, da oggi anche Bagnoli. Insomma, in Italia non si muove foglia che Cantone non voglia, così non è troppo. Ma stiamo parlando di appalti, è la nostra materia, quindi se ci sarà chiesto di occuparci anche dei controlli sugli appalti Bagnoli, lo faremo. Ovviamente ci sono tante cose da fare. Senta, ma Bagnoli è l'ultima. Deve occuparsi di cosa esattamente? Degli appalti e basta? Noi ci occupiamo degli appalti, ci occupiamo di far rispettare la normativa anticorruzione, ci occupiamo di trasparenza, che oggi è un tema importante perché c'è una nuova legge che sta arrivando, ci occupiamo di tantissime cose, per esempio persino di individuazione dei prezzi di alcuni beni che vengono poi fatti oggetto di appalto. Accidenti, ma quella di Bagnoli la prevede un'operazione difficile? Io credo molto difficile. Molto difficile. Almeno la prende dall'inizio, sarà più facile. Sì, certamente se riusciamo a entrare con un rapporto di collaborazione col commissario e con tutta la struttura sarà più facile. Io credo che lì ci sono dei problemi oggettivi, però io credo che Bagnoli è la grande occasione sprecata. In una sera che mi sono trovato... E quindi può diventare una grande occasione. Sì, io ricordo di aver mandato una fotografia al Premier in cui era un tramonto bellissimo, gli dissi guarda cosa è Bagnoli. Cosa potrebbe essere? No, ma cosa è già? E che cosa ovviamente potrebbe diventare? Ma certo quello scontro tra il sindaco e il Premier però non aiuta. Penso di no, ma io credo che qui non bisognerebbe mettere in campo uno scontro personale, qui sono gli interessi della città. Esatto. Finché non decolla Bagnoli è difficile per può Napoli. Essere un esempio per il sud, ecco, però sembra un po' così, problema di legalità da qualche parte, chiamiamo Cantone, stiamo tranquilli, non si sente un po' strumentalizzato? Ma io non mi sento strumentalizzato perché noi interveniamo nelle parti in cui nelle vostre specificità, a volte fra l'altro qualcuno ci chiama in causa anche senza ragione, poi non facciamo nulla, a volte diciamo siamo chiamati in causa più mediaticamente che non in modo reale. Appunto, come simbolo. Ecco, un anno e mezzo fa, proprio qua, lei mi diceva va bene tutto, ma non ho uomini, potere, mezzi sufficienti per fare tutto quello che mi chiedono. Adesso ha tutto? Adesso abbiamo molto di più, nel senso che abbiamo ereditato una struttura molto più significativa. 300 persone. Più 300 persone, però abbiamo delle sfide davanti pesantissime, per esempio il codice degli appalti. Fra l'altro noi abbiamo i soldi, abbiamo solo la necessità di poterli spendere. Cioè, anche lei c'ha il problema di poter spendere i soldi che ha? Sì, abbiamo per una ragione tecnica che ho spiegato anche al governo e speriamo di avere la possibilità di sbloccare. E non vogliamo soldi da parte della comunità perché li abbiamo e li abbiamo in cassa. Dobbiamo averli, poterli spendere. Ecco, ma se non riesce a spendere i suoi, come fa a accelerare i processi decisionali con i suoi interventi? Ma noi ad oggi lo abbiamo dimostrato coi fatti. Per esempio gli appalti dell'Expo non hanno avuto nessun tipo di ritardo. Anzi, Sala lo ha detto più di un'occasione. Il nostro intervento è servito a favorire. Lo ha detto ieri il Presidente della Regione Lazio, con cui noi abbiamo un rapporto di collaborazione. Noi abbiamo visionato una serie di appalti molto complicati. Lui ha detto non c'è stato nessun ritardo. Perché quello che appare un ritardo lo recuperi dopo. Se tu correggi una serie di problemi prima, non hai poi in corso d'opera i problemi. Ecco, ma per esempio lei parlava dell'Expo, c'è chi dice che per garantire il rispetto dei tempi e evitare una figuraccia internazionale si è deciso di abbassare l'asticella dei controlli, vero? È giusto tutto il contrario, almeno da quando siamo entrati noi. Io credo che si è alzato in modo elevatissimo il meccanismo dei controlli, cioè, forse prima fase. La fiera delle deroghe era precedente? No, le deroghe ci sono state ed erano previste, però le deroghe sono state compensate da una nostra presenza fortissima che ha guardato tutto, anche le virgole. Loro si sono abituati dopo un po' al fatto che noi guardassimo le virgole. E quindi tutto ok? Io questo scaramanticamente me lo auguro. Io insomma, posso dire, non prevede strascichi. Io mi auguro di no. Io posso dire, le gare che abbiamo controllate non sono state nessun oggetto neanche di ricorso al TAR. Poi se ci sono stati fatti che ci sono sfuggiti, io non mi sento di escluderlo a priori. Però ad oggi io non vedo problemi di questo tipo. Senta, quella dell'Expo è un modello replicabile per esempio a Roma? Prima di tutto è un modello replicabile in generale. Io voglio dire, perché poi dobbiamo anche dire un po' di cose buone, l'OCSE, che ha lavorato con noi sui controlli Expo, ha individuato questa come una pratica esportabile a livello mondiale. Noi a Parigi abbiamo firmato una convenzione con il Messico proprio Vabbè, per fare un sistema analogo. Modello. Secondo me sì. Ecco, lei è napoletano, da magistrato, l'abbiamo detto nella presentazione, ha contribuito direttamente a mandare all'ergastolo il boss del Casale di Schiavone. Che effetto le ha fatto scrivere sull'unità e dare del mafiosetto a Saviano? Mi ha fatto malissimo, perché Saviano può essere criticato come è giusto che accada, ma dire che Saviano è un mafiosetto è una cattiveria. Però devo dire, mi ha fatto piacere che il direttore dello stesso giornale ha preso le distanze. Forse non è la stessa, diciamo, non ha la stessa intensità. Il giornale suo, diciamo. Però, diciamo, chiamare ma mafioso insomma, Saviano... Insomma, una reazione da Renzi se l'aspettava, è il suo giornale. Ma è il giornale del partito. Sì, questa... okay. Lui è il segretario, se non mi ricordo male. Io sulle scelte che vuole fare Renzi non voglio... C'è abbastanza dei suoi. Senta, dottor Cantone, c'è la sensazione però sempre diffusa, più diffusa, che ci sia qualcosa di strano, di ambiguo sul fronte dell'antimafia. Cosa sta capitando? Sta capitando che ovviamente l'antimafia sociale, che è una cosa positivissima per il nostro paese, è stata anche un po' infiltrata da gente che ha provato a fare gli affari, da gente che ha provato a mettersi il distintivo e a utilizzare il distintivo anche un po' per mettere, diciamo, a riparo attività non lecite. Ecco, Don Ciotti, appunto, che è fondatore di Libera, lo dice proprio questo, dice che l'antimafia non può essere una carta d'identità e che se la eliminassimo sbugiarderemo chi ci ha costruito una falsa reputazione, quindi ha ragione. Assolutamente sì, e devo riconoscere a Don Ciotti che lo dice da tempo, anche perché lui sa che persino nel suo interno c'è qualche problema. E infatti, proprio Libera è stata messa sotto attacco dall'interno della stessa organizzazione. È infiltrata anche Libera? Non so se è infiltrata, io credo che Libera sia la parte migliore dell'antimafia sociale, però Don Ciotti sa che c'è il pericolo, che c'è ovviamente l'utilizzo del brand antimafia per fare altro. In questo io credo sia consapevole e non escludo che all'interno di Libera ci possano essere delle mele marce, ma il tema dell'antimafia sociale, l'inquinamento dell'antimafia sociale c'è ed è molto rilevante. Cioè c'è un'infiltrazione nell'antimafia sociale? Credo proprio di sì, e questo rischia di mettere in discussione un movimento che è stato fondamentale per assestare i colpi alla lotta alla mafia. Ecco, l'indagine per corruzione dell'ex presidente delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo effettivamente getta una luce abbastanza sinistra sull'antimafia. È una vicenda gravissima, ovviamente le sentenze le daranno i giudici, ma è una vicenda gravissima perché mette insieme due aspetti, cioè un soggetto che era diventato simbolo dell'antimafia sociale, ma che era anche uno dei giudici più esposti su un settore, però un settore in cui c'era un eccesso di discrezionalità. Io ho sempre pensato che i giudici dovessero stare alla larga dagli affari e dal potere economico. Senta, lei da quanti anni vive sotto scorta? La mia prima tutela si è avviata nel 1999. Ma è più la paura che toglie o i problemi che dà la scorta? Ma guardi, all'inizio sicuramente c'è un momento che ti può dare anche gratificazione, puoi vivere anche come viverlo stato un po' come è stato sempre. Un po' sì. Poi con il tempo, diciamo, tu ne vedi anche gli aspetti negativi. Ma io però non posso che ringraziare le istituzioni di avermi dato sempre la possibilità di essere tranquillo. C'è una cosa però che io voglio dire, che mi è dispiaciuto soprattutto per gli effetti che molte volte ha avuto sul resto della mia famiglia, perché io me l'ero scelto, loro no. Certo, e loro subiscono e basta. Hanno subito soprattutto in passato. E quando ha deciso di fare il magistrato? Ma io ho deciso di fare il magistrato non subito, no. Quando ho finito l'università ho cominciato a fare l'avvocato perché pensavo quella fosse la mia strada. Poi lo rifarebbe adesso il magistrato? Assolutamente sì, è stata la cosa migliore che mi sia potuta capitare. Ecco, Da quando è andato a parlare alla Leopolda, lei passa per un renziano. La infastidisce questa cosa o no? No, non mi infastidisce perché è facile dare le etichette. Però, per esempio, nessuno sa che io sono andato anche alla festa di Atreio. Ma perché? Di destra? Io sono stato... Ma di destra o di sinistra? Di destra, mi pare che l'ha rivendicato. Io ho raccontato che da ragazzo una volta ho marinato scuola per andare a vedere un comizio di Fini, che all'epoca era il segretario del Fronte della Gioventù. Ovviamente si tratta di una cosa che ho fatto a 16 anni. E adesso si sente di destra o di sinistra? Ma io credo che sul superamento destra-sinistra ci sia stato in parte. Se dovessi dire, io mi sento, diciamo, molto vicino a idee di tipo progressista. Ma le piace Renzi? Io credo che Renzi sia stato un momento di grande novità per il paese. Che sia cosa un momento le piace di più di Renzi? La capacità di decidere e anche la capacità di avere una visione. E di meno? Ma di meno forse, diciamo, l'eccesso della visione. Cioè un po' più di concretezza, che però meno è difficile. Meno racconto e più fatti. È difficile in questo paese, perché io credo che in questi tempi così brevi comunque i risultati che sono arrivati sono tantissimi. Ma che voto dà il governo oggi? Ma io non devo dare voti. Vabbè, ma insomma è anche il cittadino. Io credo sufficienza assoluta. Sì. Senta, dottor Cantone, lei è stato duro con i magistrati, ha detto che le correnti sono un cancro e il CSM un centro di potere vuoto, lo pensa sempre, eh? E si è trattata di una semplificazione, sì, nell'ambito di un pensa, discorso, eh? Sì, tendenzialmente sì, nel senso che le correnti non sono quello che io mi aspettavo all'inizio quando mi sono iscritto, il CSM non fa sempre quello che dovrebbe, ma ovviamente è una semplificazione. Senta, ma ha detto anche che non si sente rappresentato dalla ANM, neanche adesso? Sì, questo lo condivido, ci sono delle battaglie che fa l'ANM che condivido, altre molto meno. Ma la riforma della giustizia che sta portando avanti Orlando le piace o no? Ma io credo complessivamente sia positiva, sono state fatte molte cose in molti ambiti. Cosa la convince di più della linea? Io credo che Orlando ha capito che bisognava spaziare su tutti i temi, sulla parte penale, sulla parte civile, anche sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e dell'ordinamento giudiziario. È una riforma ancora in itinere, ecco, quindi un giudizio va dato alla fine. Alla fine, ma per esempio il cittadino quando sbaglia paga, il giudice no, è giusto? Non è giusto, ma non sarà più così. Beh, è favorevole alla responsabilità civile dei giudici? Io sono favorevole con delle garanzie. Cioè la responsabilità civile non può diventare una clava per essere utilizzata contro i giudici, perché questo va contro i cittadini. Se un giudice si sente una clava addosso, rischia di non essere del tutto, diciamo, tranquillo. Sì, però lei lo sa che dall'88 al 2013 sono quattro i magistrati, lo so bene, riconosciuti colpevoli, però io... responsabili civilmente. Non è un po' poco? Pochissimo, pochissimo. Cioè, questa però... clava non è che sia no, così, ma infatti non ha funzionato. L'alibi della clava ha consentito di non fare una legge. Usarlo. La legge attuale io credo sia molto equilibrata e anche le preoccupazioni che erano state espresse anche da una parte della magistratura si stanno rivelando assolutamente infondate. Senta, ma è favorevole alla separazione delle carriere? Non sono favorevole, ma per le ragioni opposte per chi da chi è favorevole. Cioè? Io credo che la separazione delle carriere finisca per rendere ancora più autoreferenziale il pubblico ministero. Perché il pubblico ministero diventerebbe ancora più autonomo. Però c'è meno intreccio. Ma ce n'è adesso molto meno, perché comunque con le riforme Castelli e Mastella si sono previste dei meccanismi di forte distinzione. Io su quello lavorerei, però lascerei nei pubblici ministeri la cultura della giurisdizione. No, è un problema soprattutto di cultura. Senta, davvero pensa, come ha detto, che la corruzione sia peggio della camorra? Sì, perché? Io lo penso, perché la corruzione è molto più camaleontica. Diciamo, il camorrista tradizionale te lo vedi di faccia e tutto sommato anche lombrosianamente lo conosci. Il corrotto e il corruttore spesso sono persone che declamano anche legalità. L'abbiamo detto prima. Lei è di Giuliano, piena terra dei fuochi, però dice una cosa sorprendente. Su questa storia si sono dette delle balle spaziali. Balle spaziali. Sì, forte. Perché qualcuno ha detto che per esempio erano stati sepolti rifiuti radioattivi, non sono mai stati visti. Cioè, guarda, non è vero? Non è vero. Cioè non c'è nessun rapporto tra i rifiuti interrati dalla camorra e i tumori? Non no, ci sono... c'è il rapporto, altro che se c'è il rapporto. Ma io credo che le esagerazioni e le esasperazioni, così come è avvenuto nella lotta alla mafia, rischiano di fare molto danno. Noi dobbiamo provare a ragionare sui fatti. Ma i fusti radioattivi ci sono o no? I fusti radioattivi non li ha trovati nessuno. Hanno trovato fusti molto inquinanti, ma i fusti radioattivi non li ha trovati nessuno. Senta, nel suo libro I Gattopardi lei scrive: la criminalità è così organizzata che risolve tutti i problemi e offre servizi a apprezzati e competitivi. Lo Stato ha perso. No, non è assolutamente vero, però bisogna prendere atto che la criminalità spesso è un service. Molto spesso anche gli imprenditori preferiscono rivolgersi alla criminalità piuttosto, per esempio, che ai tribunali. Ecco, dice infatti che i padrini oggi selezionano una generazione che legalizza i capitali accumulati e che controlla il territorio limitando la violenza. Questo è lo scenario di oggi? È uno scenario che ovviamente non si applica in tutte le realtà, ma certamente è uno scenario. Il metodo cosiddetto provenzano dell'inabissamento è diventato sempre più forte. Meno violenza, più affari. Più affari. Quindi sparare conviene meno. Sparare conviene meno, dipende dalle realtà. In una città come Napoli questo purtroppo non si verifica. Non è ancora vero, infatti. Perché a Napoli c'è stato un cambiamento epocale. I boss sono ragazzini, spesso ipercocainomani, soggetti pericolosi. C'è un interscambio continuo della criminalità organizzata. Ma infatti ci sono ragazzini di 13-14 anni che sparano. Sono ragazzini di 13-14 anni che sparano e ragazzini di 18-19 anni che fanno i capolanno. Ma quindi senza un esercito di educatori alla legalità non si può fare molto. Io sono convintissimo che quello che diceva Caponnetto, in certe zone invece di mandare l'esercito manderei un esercito di insegnanti. Io ho visto delle un scuole, esercito di insegnanti eroi, di insegnanti che fanno il loro dovere. Noi non abbiamo bisogno di eroi, abbiamo bisogno di persone normali. Però, perché insomma, gli eroi insegnare in quei contesti diventa sicuramente è eroico in sé, ma abbiamo bisogno solo di persone che fanno il proprio dovere, perché il rischio dell'eroe è sempre quella della mitizzazione. Ma lei l'educazione alla legalità come la farebbe? Io la farei con la conoscenza e con l'esempio. Io per esempio mi sono opposto quando qualcuno ha detto inseriamo la legalità fra le materie di studio. Ma la legalità è un meccanismo che si vive, come dice Don Ciotti. Evitiamo anche di strumentare questa parola. Lui dice utilizziamo la parola responsabilità. Responsabilità. Ma davvero oggi le mafie fanno più soldi con la testa che con i muscoli? Assolutamente sì. Ma vicenda, più a nord o a sud? I soldi credo li fanno spesso al nord, perché le mafie sono organizzazioni economiche. Drenano le ricchezze al sud, in qualche caso le investono dove rendono. Investire al sud spesso non rende, e quindi è molto meglio investire al nord, dove c'è anche una minore attenzione rispetto al fenomeno. Ma nell'insieme l'Italia di oggi è più o meno corrotta di Tangentopoli, dell'epoca di Tangentopoli? Io credo sia diversamente corrotta. Dice Piercamillo Davigo che Tangentopoli è stata una sorta di operazione darwiniana, ha cambiato la corruzione, ha eliminato i corrotti e i corruttori fessi e ha lasciato quelli buoni. Oggi il sistema della corruzione non è quello di Tangentopoli. Sarebbe un grande risultato avere Davigo all'ANM, eh? Io credo che Davigo diciamo, è un ottimo magistrato. Credo che il miglior risultato è quando Davigo fa il magistrato. Senta, quindi ha ragione che chi sostiene che la corruzione sia una sorta di malattia endemica delle società complesse? Non è vero, perché diciamo ci sono società complessissime, per esempio quelle del nord Europa, in cui il livello di corruzione è bassissimo. E poi ci sono società molto semplificate, alcune dittature degli stati dell'est, dove il livello di corruzione è elevatissimo. Quindi non è lì il punto. Ecco, rispetto a fatti come quelli che stanno emergendo a Panama, la legislazione anticorruzione è anni luce in ritardo o no? Ma qui non è un problema di legislazione anticorruzione. Io credo che qui è un problema di mettere regole valide per tutti, che riguardano soprattutto i sistemi di tassazione. Cioè molti stati hanno utilizzato i paradisi fiscali per fare affari ed altri stati hanno fatto finta di non guardare. Ecco, ma è curioso però che in tutte queste elenchi che vengono fuori ce n'è di tutte, ma americani no. Possibile, quelli tutti perfetti, è strano. Lo penso anch'io. Ah, lo pensa anche lei. Ma pensa come Putin, mi sembra. No, non penso come Putin. Io penso che probabilmente gli americani avranno scelto un altro paradiso fiscale. Un altro paradiso fiscale. Senta, cosa si può fare in casi del genere? Io credo che qui bisognerebbe... Vabbè, un po' l'ha detto, bisognerebbe lavorare. No, bisognerebbe lavorare sul piano internazionale. Per esempio i paesi come la Svizzera hanno aperto a una maggiore trasparenza. Anche alcuni paesi, altri paesi stanno capendo che essere nelle blacklist internazionali può essere un danno. Bisogna penalizzare chi opera questo sistema, penalizzare sul piano del commercio internazionale. E poi uniformare il sistema fiscale. Uniformare è possibile fino a un certo punto. Il più possibile, insomma. Sì, ma soprattutto, secondo me, penalizzare chi è poco trasparente. Senta, le lobby non si riesce a regolarle in Italia, lo stiamo vedendo anche adesso sui petroli, eccetera. Come bisogna fare? Prima di tutto c'è bisogno di una normativa. E in questo senso, per esempio, io so che la presidenza della Camera sta per approvare un codice etico che introduce meccanismi di identificazione dei lobbisti. È un piccolissimo passaggio, ma è un primo passaggio. I lobbisti sono riconosciuti dappertutto. Ma poi non è una cattiva parola, no, lobbisti. Appunto, il problema non si capisce perché gli intermediatori che vendono le case sono professionisti e gli altri diventano lobbisti. Ci sono tantissime persone che dicono nella loro attività fanno relazioni istituzionali. Cosa sono le relazioni istituzionali? Lobby. Certo. Ma non c'è nulla di male, anzi il problema è quello di renderlo evidente, cioè quando i meccanismi sono trasparenti. Perché se sono evidenti i conflitti di interesse si vedono. Basterebbe vedere quello che succede negli Stati Uniti, dove i finanziamenti delle campagne elettorali sono faraonici, i soggetti che finanziano sono pubblici e questo rende molto più complicato i conflitti di interesse. Quello che c'è nel nostro petrolio però con la Total è una cosa diversa. Sì, probabilmente è una cosa diversa, però devo dire ha anche poco a che fare con le lobby, perché certo, se è un fidanzato... Certo. Senta, Cantone, in ritardo però sono anche gli arbitrati che dovrebbero stabilire a chi restituire i soldi truffati dalle banche. Tocca a voi, un altro compito che vi è stato dato, decidere a chi sì e a chi no. A che punto siamo? Allora, prima di tutto è stato per il momento solo annunciato, non c'è nessuna norma che ci dà il potere, quindi è stato detto dal presidente Renzi, non c'è mai stata alcuna norma. Fa parte dello storytelling. No, il presidente Renzi, devo dire, poi quando dice le cose poi le fa, almeno diciamo le annuncia le fa. Qui però c'è, da quello che abbiamo capito, una novità interessante, cioè il governo sta provando a utilizzare il meno possibile gli arbitrati, cioè a restituire il più possibile. Io credo che in questo senso, cioè, se si dovesse raggiungere l'obiettivo di poter restituire di più e in modo più semplice, ne possiamo fare a meno, certo, degli arbitrati. Ma si può dire una cosa certa e definitiva ai nostri spettatori? Purtroppo che non posso dirlo io. Noi abbiamo dato la disponibilità a fare gli arbitrati e siamo pronti quando ci verrà chiesto. Ma ecco, è un problema però, politico. Però è sembrato strano che l'arbitrato sia stato affidato a voi, non alla Consob, alla Banca Italia, che lo fanno di mestiere. Ma io non credo che sia sembrato strano, il problema era quello di individuare, sì, però voglio dire, se uno ci pensa attentamente, no, qui si è voluto anche evitare una serie di possibili problemi di immagine. Con la Banca d'Italia c'è da parte nostra una collaborazione assoluta. Parlato? Io col governatore Visco ho parlato in tantissime occasioni, no, assolutamente sì. Sì, assolutamente sì. Noi per esempio facciamo prossimamente a maggio un convegno con i responsabili della prevenzione della corruzione presso la sede di Banca d'Italia. Senta, dottor Cantone, chi ha preso male i vostri controlli invece è il Presidente del Consiglio degli Avvocati. Il Consiglio di Stato gli ha dato ragione dopo tante vittorie, una sconfitta. Ma prima di tutto io non considero sconfitte queste, perché no, diciamo sono fatti istituzionali. Se il TAR o il Consiglio di Stato decide una cosa, per me non è una sconfitta. Noi rispettiamo qualunque decisione, ma poi non è vero che è una sconfitta, perché il Consiglio di Stato ha sospeso una sentenza pesantissima del TAR dicendo sta entrando in vigore una nuova legge, quindi in realtà ha fatto una cosa che io condivido. Siccome da qui a un po' avremo una nuova norma, applichiamo le modalità. Attenzione però, la nuova legge dice quello che dicevamo noi, gli ordini degli avvocati vanno sottoposti alle regole anticorruzione. Quindi non brucia, come non è una sconfitta. Ma che non brucia. Sono queste le sconfitte. E qual è? Mi dice una sconfitta che le brucia? La sconfitta del Napoli domenica. Questo ci arriviamo poi al Napoli. Senta, anche a Milano però c'è uno scontro fra lei e Maroni, esattamente su cosa? No, non c'è uno scontro fra me e Maroni, devo dire Maroni mi ha preavvertito che aveva intenzione di fare un'agenzia anticorruzione. Noi riteniamo che però quella non può essere fatta come se fosse una sorta di copia dell'ANAC, ci sono poteri che spettano agli organi centrali e poteri alle regioni. Io credo che quella legge sia andata un po' al di là, ma non c'è nessuno scontro. No. Chiunque vuole lottare alla corruzione sia benvenuto. Sì, ma se sono in tanti ci lottano meno, no? Forse? Se il rischio della confusione, questo è un problema. Però voglio dire, io credo che l'intenzione sia buona, le modalità con cui è stata messa in campo mi destano perplessità, ma non c'è nessuno scontro. Senta, dottor Cantone, Bertolaso per anni è stato l'uomo della provvidenza. Non dico San Gennaro, ma l'uomo della provvidenza, che risolveva tutto. Tutti i problemi che c'erano si affidavano a Bertolaso. Poi è capitato quello che è capitato, i giudizi sono in corso, alcuni sono conclusi, altri no. Ma è un esempio che le fa paura in un'Italia che prima esalta e poi distrugge? Ovviamente stiamo parlando di due cose, situazioni completamente diverse. Ma io capisco e credo che sia un esempio che fa paura, soprattutto io scaramanticamente tocco ferro. Questa è l'Italia di Masaniello, quella che ti porta agli altari e due giorni dopo ti porta nelle polveri. Quindi purtroppo capita, ci sono tantissimi esempi nel nostro paese di provare a trovare l'eroe per poi provare per poi a buttarlo giù. Sì. Lei questo rischio non se l'è mai sentito addosso? Ma io, visto che un po' gliela cuciono addosso. Ma me la cuciono, ma io non mi sento affatto tale. Io non ho cambiato i miei stili di vita, le cose che faccio. Cioè, diciamo, il suo antidoto qual è? La normalità, la quotidianità come quella di prima. Io non ho cambiato luogo in cui vivo, non ho cambiato le abitudini, non ho cambiato le mie amicizie. Senta, diceva che bruciava la sconfitta del Napoli perché non vincete più il campionato, per quello è diventato molto più difficile. Sì, lei è un tifoso accanito? No, io sono non accanito, ma sono molto tifoso. Molto tifoso, senta, anch'io della Juve, però. Senta, questo non mi fa piacere. No. Senta, anche perché ha avuto un altro regalo, la squalifica di Higuain. Un regalo, non era giusta, lei non l'avrebbe squalificato? Io l'avrei squalificato perché Higuain è un grande campione e deve comportarsi da grande campione. Io credo che sia, fra l'altro, un cioè, esempio lei dice positivo. Che quattro giornate sono troppe. Due. Grazie. Con la Roma ce lo devono ridare. Ah, va bene, grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms pubblicità. Mix 24. Allora, Mario, titolo del Faccia a Faccia con Cantone. Ma dunque, tuo giornale. Come ti dicevo, mi è venuto in mente mentre parlava appunto lo spot di Seghela per Mitterrand, no? La forza tranquilla, sì. la forza tranquilla. E insomma, secondo me è questo, la forza tranquilla. Se vuoi lo declino anche in un catenaccio. Cantone è consapevole di sé e della sua autonomia. E tu, Pietrangelo? Titolo, no, più che un titolo, sono rimasto turbato sulla dichiarazione a proposito di San Gennaro. Cioè? Che non è devoto di San Gennaro, eccetera. Ma, però del tuo santo, no? Tu non hai. Allora io farei così. Un monito, più che un titolo, un monito. Pericoloso, non essere tifoso di San Gennaro e napoletano. San Gennaro è lungariello, ma non è scordariello. Cominciamo bene. È molto carina, canzone. Metropolitana, un uomo e una donna se ne stavano stretti e vicini, anzi lui stava piegato su di lei facendo delle ginocchia, del ventre di lei un giaciglio, e lei giocava coi ricci e l'orecchio di lui tamburellando con le dita. Insomma, ha chiamato Léon, ha voluto questo brano per Emma Bovary con un messaggio: un infinito di passioni può concentrarsi in un attimo come una folla in un piccolo spazio. Allora Mario, andiamo in campo con la tua bolla. Vai. Che cosa ci racconti? Oh, Rihanna mi stava spaccando i timpani sulle cuffie, è partito un basso, ho danni al timpano sinistro permanenti. Allora, no, Umbrella, Rihanna, dai, a forza, andiamo a comprare. È bella e brava, questa fa ballare un sacco di gente. Allora, Giovanni, volevo occuparmi un po' di paradisi fiscali, eccetera. Intanto una notizia, un po', una notizia. La prima è che oggi in Commissione Finanze alla Camera si discute l'accordo di collaborazione tra Bermuda e l'Italia, perché Bermuda non è solo un posto bello dove spariscono anche la leggenda del triangolo di Bermuda, navi e aerei che poi ricompaiono all'improvviso nei film. No, è anche un paradiso fiscale e sul quale appunto si sta lavorando per cercare ridurli. Ora Quindi chi ha il conto Bermuda è avvisato. Attenzione. Levate tutto perché prima o poi vi beccano. Invece sui Panama Papers, secondo me, che sono un bel caso più che altro di Infowar, come dicevamo insieme l'altro giorno, c'è questa cosa che secondo me è abbastanza surreale. Quando Obama ha detto bisogna eliminare tutti i paradisi fiscali, tutti i buchi nel sistema globale che favoriscono appunto l'evasione. Lasciare solo quelli americani. È bravo, perché questo è il punto. Sembra che ci sia solo l'America dove si può andare in paradiso fiscale. Raccontatela tutta. Raccontarla tutta significa che se elimini gli altri restano solo gli americani. Faccio solo un piccolo elenco di dove potete andare a mettere l'azienda, i vostri soldi, il vostro trust, la vostra società offshore. Sono il Nevada, le Virgin Islands, Wyoming e Delaware. Là siete tranquilli. Lì Obama non dice niente. Niente, perché sono in America. Allora, ragazzi, però... infatti nella lista di Panama americani non ci non sono. Non ce n'è, è molto tutti nel Delaware. Sono tutti nel Delaware. Allora, Salamino. In principio fu Aristofane e fu commedia le donne in Parlamento. Gli uomini portavano Atene alla rovina e furono le donne allora a decidere sulle sorti della città, a partire dalle leggi del desiderio, per esempio, non so se ricordate. Cioè la legge sul desiderio, sì, qual era? Sì, nella commedia di Aristofane c'era quella scena dove ogni uomo, prima di andare con una bella, era tenuto ad andare con una brutta, e così era festa per tutti. In principio appunto fu Aristofane e si fece regola. Regole, ossia l'unione delle assemblee, delle proprietà collettive, delle terre da pascolo e forestali, hanno detto ancora una volta no all'idea di fare entrare le donne nell'istituzione. Questo è successo a Cortina. Quindi in tema di mandrie, di rami da potare e legna da tagliare, insomma, decidono i signori uomini. So, non taglio legna, son così. Taglio la legna la notte e il dì. È un taglia legna ed è così. Taglia la legna la notte e il dì. Tutto l'equilibrio di 16.000 ettari è affidato alla rappresentanza del fuoco, ovvero la famiglia. A San Pietro di Cadore, come scrive oggi sul Corriere della Sera Gian Antonio Stella, invece hanno capitolato. Lì le donne sono già in Parlamento, ma a Cortina no. L'opinione dei saputi già starnazza i diritti, ma insomma l'eccesso di diritti porta allo storto e c'è un profluvio di... Nenti vitti, nenti saci. Un profluvio di suggerimenti, perché insomma se Repubblica oggi si lamenta, proprio tromboneggia a Cortina, la Costituzione deve ancora rifare, io sulle note di questa bellissima canzone che è malizia, e approfittando pure di fare gli auguri all'esecutore Fred Bongusto che oggi compie 81 anni, voglio ricordare e magari avere il giudizio delle nostre gentilissime su questo nuovo proverbio, no, su questa che non è massima, ma su questa che è sentenza definitiva, che dice: non ti fidare di fuoco di vento. E non bisogna fidarsi del fuoco di vento, giusto? Giusto. Non ti fidare di monaco uscito di convento, e quindi di uno appena spretato non ci si può fidare, no? No. Non ti fidare di ricco che fu poverino, non ci si può fidare appunto di un arricchito, e non ti fidare di femmina caparra latino. E foreste miure, miure. Malizia! È molto. Malizia! Vai Mario! Va bene. Ancora. City girls just seem to find out early how to open doors. Allora, Giovanni, qua c'è stata una piccola disputa stamattina, perché Alessandra Fiori, mentre noi componevamo il nostro canovaccio, no? Sì. La nostra sceneggiatura della trasmissione, a un certo punto ha detto: dai, metti la musica country. E io ho guardato e ho detto: country? Mi spiego molte cose di te, però però ho trovato un compromesso, perché questo pezzo degli Eagles è molto country. Ancora un po'. Grande musica. Allora, stiamo in America, questo è il punto vero della faccenda. Allora, non volete Trump? Cari amici occidentali, degli europei avveduti e italiani saputi, non volete Trump? Vabbè, ha perso le primarie in Wisconsin e ha vinto Cruz per la prima volta dal 52. Questo è il dato politico interessante. La convention è aperta. Si deciderà... cioè, sarà una convention vera, non decisa prima. Prima. Quindi i delegati poi decideranno. È già la cosa divertente dal punto di vista, diciamo, politico nostro, un po' anche di come vediamo i fatti americani e come li travisiamo, soprattutto, è che appunto il mio eco scandalo già capta i sospiri di sollievo dei cosiddetti sinceri democratici, che erano tutti preoccupati per l'ascesa di Trump. Sì. Non volete Trump? Sentite qua. Of course in Texas we cook bacon a little differently than most folks. Sapete cos'è questo? È lo spot. Questo è lo spot di quel moderato, democratico, intelligente, illuminato e certamente avversario storico di Trump, e speriamo che vinca lui, che spara con un mitra e sulla canna del fucile automatico ha il bacon. E lui dice: cioè, fa cuocere il bacon, fa cuocere lì. Il bacon lì. Se questo è un moderato, io mi terrei Trump. Perché questo è Cruz, non l'abbiamo detto. Questo è Cruz. Canzoniere. A quanto ho letto, non v'è superstizione al mondo che non si annidi qui, quasi fosse il centro di una sorta di vortice dell'immaginazione. Se così fosse, il mio soggiorno può rivelarsi molto interessante. Devo chiedere al conte informazioni su questo, e non ho avuto un buon sonno. Il letto abbastanza comodo, ma sono stati strani sogni. Un cane ha ululato tutta notte sotto la mia finestra, e forse anche questo ha avuto effetto, o può darsi che sia stata colpa della paprika. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, gli sms. Mario, no, una io sto attentissimo, non dico niente. No, volevo dire che questa è una colonna sonora straordinaria. Questo è il tema di Mina. Zitto! Per l'esattezza, non dico altro. Piccolo suggerimento. Pubblicità. Mix 24. L'esercito ha preso mio marito e non riesco più a trovarlo. Lo hanno portato via da casa il 28 ottobre alle 6 di sera. Hanno sfasciato tutto, mi hanno buttato per terra. Mi hanno picchiato, mi facevano tante domande. Continuavano a picchiarmi e a farmi domande. Io volevo solo vedere mio marito, ma loro mi dicevano: non guardare, non guardare, non guardare. Non guardare. Però io li ho visti tutti in faccia. Una sequenza da Garage Olimpo, forse il film che meglio ha raccontato la tragedia dei desaparecidos. Dalla fine del marzo del 76 l'Argentina vive l'orrore di una dittatura militare sanguinaria e violenta. Un golpe senza incidenti, senza parate, senza discorsi. Si allontana così per 7 lunghi anni l'attenzione dei media internazionali, che avevano invece condannato il Cile di Pinochet. La guerra sporca argentina farà sparire nel silenzio decine di migliaia di oppositori, torturati, uccisi, gettati nell'oceano alla fine di un viaggio senza ritorno. E lo sterminio di massa di un'intera generazione. Ma c'è chi non si arrende alla violenza e, a rischio della vita, reagisce a quella spaventosa macchina della morte. Enrico Calamai, un eroe scomodo. Ambasciata italiana di Buenos Aires, un diplomatico italiano salva più di 500 persone da una morte sicura. I testimoni, i documenti, i segreti. Oggi a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Francesco da Varese, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, per il canzoniere lei, no? Sì, certo. E allora cosa ci dice? Dracula. Di? Bram Stoker. Giusto. Bravo. A Varese che fa di bello a quest'ora? A Varese vado al lavoro, faccio il fotografo. A quest'ora? Beh, abbiamo dormito con calma, eh? Beh, ieri sera si è lavorato fino a tardi. Ah, vabbè, allora se fa il fotografo è normale, eh? Grazie. E adesso, come sempre... Mario, c'è ancora una bolla tu? Una bollettina, sì, se abbiamo un amico. Ehi, devi essere più ottimista. Molti perdono, piangono e mollano. Invece devi restare in gioco. La fortuna oggi va di qua e domani di là. Non scappare quando perdi. Non piangere quando ti fai male. Non piangere quando ti fai male. Non scappare quando perdi. La fortuna va di qua e di là. Gordon ha sempre dei consigli per se stesso, fondamentalmente. Poi. Ma la cosa interessante, secondo me, viene dall'Unione delle Banche Arabe. Che insomma, per la prima volta io leggo che prendono una posizione e dicono che non bisogna aprire i conti all'ISIS. Che insomma, già fa abbastanza notizia, l'ISIS ha dei conti. Questo era immaginabile. Sì, però voglio dire, questi dicono che bisogna bloccare i flussi di finanziamento impedendo agli uomini di aprire i conti. E chi sono queste banche arabe? Non so il dettaglio degli aderenti, ma penso tutti i principali istituti a questo punto, perché si parla Wissam Fatou, ho visto. Dice anche che ci sono finanziamenti, organizzazione che riesce a ottenere finanziamenti che superano milioni di dollari, insomma, ogni giorno. È una notizia. Vabbè, adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. British Medical Journal, febbraio 2016. Effetti dell'attività fisica strutturata nella prevenzione delle cadute. L'obiettivo di questo studio è quello di testare se un'attività fisica a lungo termine per qualche anno, comparata con semplicemente dei suggerimenti e un programma di educazione sanitaria, riduce il rischio di cadute tra anziani sedentari con limitazioni funzionali. È lo studio cosiddetto LIFE, di cui abbiamo già parlato, che è stato quello che ha voluto testare questa e altri risultati in una popolazione di anziani sedentari. Hanno voluto vedere cioè se l'intervento con l'esercizio fisico in anziani non troppo fit o non troppo scassati, cioè un po' una via di mezzo, se l'esercizio fisico facesse qualche cosa. 1635 anziani sedentari tra i 70 e gli 89 anni che avevano un'attività fisica ben strutturata 3-4 volte la settimana a casa e 2 in un centro specializzato, con esercizi aerobici, esercizi di resistenza, di flessibilità e di equilibrio, sperando che tutto questo abbia un effetto sulle cadute, che come sapete sono uno dei problemi dell'anziano, spesso con effetti rovinosi. Quindi averci una situazione in cui un intervento banale come l'esercizio fisico diminuisce le cadute certamente sarebbe una soluzione benvenuta. I risultati non sono confortanti, nel senso che c'è solo una tendenza alla diminuzione delle cadute, ma non c'è un risultato statisticamente soddisfacente. Quindi è evidente che qualche cosa fa l'esercizio fisico, ma non è la consueta panacea, non dà risultati magici come spesso mi avete sentito dire che fa l'esercizio fisico. E allora per finire, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi, anzi per voi? Oggi una canzone per chi si ripete, amore dopo amore, errori di grammatica compresi. Ornella Vanoni, Dettagli. Io so che un'altra donna sta inventando una frase fatta di parole come quelle che ho già detto, mi sembra matta. senza errore non si ha